ancora buona giornata da Anna Migliorati. Siamo pronti a cominciare con prima edizione. Sono offesa con la TV per come tratta le donne. Sono 3 mesi ormai che non la guardo, meglio spegnere. Parole le leggiamo dal Corriere della Sera di questa mattina del ministro Elsa Fornero, che è anche ministro per le pari opportunità. Ha commentato così l'immagine televisiva della donna, commentando il Festival di Sanremo e la famosa puntata con Belen, il suo spacco. Così ha commentato il ministro Fornero, che però ha anche ammesso: io però non l'ho vista. E allora, per chi anche ieri sera non avesse visto il Festival di Sanremo, perché magari era anche già a dormire con la sveglia presto al mattino, vi diciamo che già c'è chi dice che si è trovata l'anti Belen, perché ieri sera nella serata dei duetti tra i cantanti in gara e gli ospiti internazionali c'è stato anche un altro duetto, quello tra Gianni Morandi e Federica Pellegrini. La campionessa del nuoto azzurro ha duettato, ha ballato e si è scatenata anche in un rap sul palco dell'Ariston. Ma sei più emozionata quando vai a fare le gare o qui sul palco di Sanremo? Beh, devo dire è qui, perché io sono abituata ad avere tanta acqua, poca gente, a sentire poco, qui invece è un po' diverso. Però non sei intimidita tu, no? Sei una che ha della grinta, no? Sì, beh, un po' timida lo sono veramente, però la grinta c'è, non lo nascondo. Senti, quest'estate ci saranno le Olimpiadi, tu ti sei allenata anche oggi? Sì, stamattina. Ti alleni tutti i giorni, anche stamattina? Eh sì, poi ho preso l'aereo e sono venuta da te. E così Federica Pellegrini, ascolti in callo senza Celentano, vedremo come sarà andata oggi. Per noi la viabilità e poi le prime pagine dei quotidiani. Strade in diretta. Buongiorno dalla redazione di Strada in Diretta. Traffico in aumento verso le grandi città e ci sono già code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la nuova Vigevanese e l'innesto con la 7, la Milano-Genova in direzione sud verso l'Autosole. Oggi sciopero del personale ferroviario della Lombardia dalle 9 alle 17, sarà invece regolare il servizio delle Ferrovie Nord, compreso il collegamento Milano-Cadorna-Aeroporto Malpensa. Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale in Liguria, Genova, mezzi a rischio dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 fine servizio. Sciopero del trasporto pubblico locale anche a Cagliari, servizi pubblici non garantiti dalle 12 alle 16. Noi torniamo tra mezz'ora. Prima edizione. Le prime pagine dei quotidiani, aperture quasi identiche stamattina. La corruzione sta dilagando, Corriere della Sera. La Repubblica, la corruzione sta dilagando. La Stampa, corruzione è sempre peggio. Il Messaggero, corruzione dilagante. Come vi dicevo, davvero titoli quasi fotocopia. Perché? Perché queste sono le parole. L'allarme è arrivato dalla Corte dei Conti a 20 anni esatti da Mani Pulite. Era il 17 febbraio di 20 anni fa, quando scattava l'arresto di Mario Chiesa e si apriva la stagione di Mani Pulite. Ieri la Corte dei Conti ha fatto il bilancio 20 anni dopo ed è davvero un bilancio impietoso, un fenomeno, la corruzione, leggiamo dal Corriere della Sera, ma lo trovate veramente su tutti i quotidiani, un fenomeno da 60 miliardi nel 2011, con quasi 2 condanne al giorno per funzionari pubblici. Tutto come prima, così il commento di Giovanni Bianconi, il titolo del commento di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. I commenti sono più o meno tutti di questo tenore. La nostra mazzetta quotidiana, scrive Piero Colapricco, e così via un po' su tutti i quotidiani. Ne parleremo molto anche nel corso questa mattina di GR24. La vignetta di Giannelli, 20 anni dopo, ricordati figliolo, Mani Pulite, per non lasciare impronte, questo, quello che è rimasto 20 anni dopo, così l'apertura dei quotidiani. Il Sole 24 Ore, anche qui la corruzione costa 60 miliardi all'economia, sull'IVA evasione record, l'allarme illegalità della Corte dei Conti, ma l'apertura è dedicata oggi in realtà ad un'altra notizia: cambiano le tasse su casa e rifiuti. Ecco la prima bozza del decreto fiscale, scrive oggi il Sole 24 Ore. Sanzioni triplicate, tra l'altro, per chi esporta somme illegalmente. Imposta di soggiorno in tutti i comuni, previsti tagli alle esenzioni e alle agevolazioni per l'IMU, nuovi paletti alle compensazioni IVA. Arriva arrivano altre novità col decreto fiscale. Le trovate questa mattina sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Se sono praticamente identiche, abbiamo visto le aperture dei quotidiani, diverse invece le scelte che si fanno per le notizie di centropagina, la seconda notizia insomma messa in evidenza. Il Corriere della Sera sceglie questa, come abbiamo fatto anche noi poco fa tra l'altro in GR24, giovani, cala l'occupazione, persi in 9 mesi 80.000 posti di lavoro. Sono i dati Istat e sui licenziamenti spunta intanto l'ipotesi arbitrato, ci ricorda il Corriere della Sera. La Repubblica, taglio centrale. I PM di Roma processate Berlusconi per Mediatrade, la richiesta della procura e il cavaliere che attacca i giudici sul caso Ruby e dice è solo fango. L'immagine che trovate a centropagina del Corriere della Sera riguarda invece ancora la stretta dell'ICI sulla Chiesa con l'Unione Europea che promuove il piano Monti e poi si fanno i conti, porterà ai comuni 600 milioni, 700 erano le stime ieri di alcuni quotidiani, comunque la cifra grosso modo è quella. La Stampa. Altra notizia, uccisi due pescatori, tensione Italia-India, colpiti dai marò che scortavano un mercantile perché li hanno scambiati per pirati, alta la tensione tra il nostro paese e l'India per questa vicenda avvenuta ieri mattina. E ancora sempre sulla Stampa, la lotta all'evasione, Italia-Svizzera, prima apertura, un'intesa sui capitali all'estero, il governo sta cercando un accordo come quello raggiunto da Berna con Londra e Berlino per riportare in Italia i capitali dell'evasione. Il messaggero in centropagina riporta una notizia che è tutta romana ma che rischia di allargarsi ad altre parti d'Italia. Nel mirino della Procura di Roma i reparti d'emergenza di tutti gli ospedali. C'è l'inchiesta sui pronto soccorsi. È stata aperta dai carabinieri dei NAS dopo che sono state segnalate molte disfunzioni. Molte sono state fatte anche dai media nei giorni scorsi e tra l'altro anche ieri sera da Piazza Pulite sulla 7. Allora facciamo anche un po' di telezapping e sentiamo cosa è andato in onda ieri sera sulla 7. La più grande azienda ospedaliera d'Europa. Sono le 8 di sera. L'ambulanza ha da poco portato un malato. Chi è lei che vende da lei? Ma chi è che prega a me parlare? Io voglio che medico è mio padre. L'aria è tesa. Come si chiama lei? Posso fare? Ormai ci abita qua dentro, al pronto soccorso chiede pure dove è andato. Questo lo sentite quanto registrato dalla 7, ma lo hanno fatto anche altri media nei pronto soccorsi romani. Oggi il Messaggero ci dice che al San Camillo, come però anche all'Umberto I, al Gemelli, al Tor Vergata, a Macchia d'Olio e in tutti gli altri centri di pronto soccorso cittadini, sta indagando la Procura di Roma. Altre segnalazioni, abbiamo ancora un po' di tempo, dal Corriere della Sera, taglio basso, c'è una lettera al Corriere della Sera, noi disabili cittadini invisibili, nei messaggi al Corriere il racconto della lotta contro solitudine e pregiudizi, scrive oggi Gian Antonio Stella, un europeo su quattro ha un familiare disabile, basta questo per capire come l'handicap faccia parte della vita di moltissimi di noi. Sono i messaggi arrivati al blog del Corriere della Sera, una serie di lettere che oggi vengono pubblicate, pagina 27, noi disabili, cittadini invisibili. Invisibili, non certo per loro volontà, sono state anche alcune delle vittime dell'amianto, dell'Eternit. Ecco cosa scrive questa mattina la Stampa. Risarcimento a rischio. Che è successo? La beffa del computer. È successo che il nome di decine di familiari si è perso nel passaggio finale dal file al testo scritto. E quindi, se vi abbiamo raccontato che lunedì sono arrivati risarcimenti per tutte le persone coinvolte nella vicenda dell'Eternit, almeno per quanto riguarda i due comuni del piemontese, in realtà così non è vero, perché alcuni nomi si sono persi, quindi non sono stati letti in aula e quindi a queste persone non arriveranno i risarcimenti come agli altri. L'appello, l'ultima speranza, scrive la Stampa, che racconta davvero questa vicenda questa mattina che ha dell'incredibile. Altra segnalazione, vabbè, ve la faccio questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, perché la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un'inchiesta Gazzetta. Dove può arrivare Milan No Limits? Sceva, Donadoni, Spalletti, Ancelotti convinti che i rossoneri possono andare fino in fondo e un pagine dedicate a il Milan, così la Gazzetta dello Sport, inchiesta Milan questa mattina. E con questo, come sempre, io l'appuntamento ve lo do con Alessandro Milan, 7:20, per andare anche nelle pagine interne. Questi, diciamo, sono i temi principali, ma c'è anche molto altro sui quotidiani di oggi. Alle 7:20 la rassegna stampa con Alessandro Milan e noi invece voltiamo pagina. Vogliamo pagina perché vogliamo parlare anche d'altro, vogliamo parlare anche di scuola questa mattina. Io saluto la nostra esperta di scuola di Radio 24, buongiorno Maria Piera Ceci. Buongiorno Anna, questa mattina parliamo di una piccola rivoluzione nel bene e nel male, secondo qualcuno, che si profila nella scuola lombarda. La regione vorrebbe infatti introdurre il reclutamento diretto degli insegnanti alle superiori con concorsi locali e chiamate a diretta dei presidi, almeno per gli incarichi annuali. La proposta ha sollevato molte polemiche, tanto che c'è stata una frenata ed ora la regione Lombardia parla di sperimentazione e di un percorso tutto da individuare con il governo e con le parti interessate. Ma pur sempre di piccola rivoluzione si tratterebbe. Ne è convinta il neo assessore lombardo all'istruzione Valentina Prea. Diciamo che la grande novità sta nel fatto di sperimentare un modello che possa far incontrare per la prima volta la domanda e l'offerta, ovviamente per migliorare la qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti. L'obiettivo è quello di garantire anche sulle supplenze annuali l'insegnante più preparato a ricoprire quel posto in quella scuola, superando quindi l'assegnazione burocratica dei docenti alle scuole. È un piccolo passo, ma grande e significativo, verso modelli di reclutamento più flessibili e meno burocratici. È incostituzionale, non potrebbe avere che esiti disastrosi invece il progetto di reclutamento diretto degli insegnanti, secondo Marcello Pacifico, presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti. Innanzitutto in Italia la competenza esclusiva per l'assunzione nei ranghi dello Stato e appunto dello Stato non è concorrenziale con le regioni. Poi figuriamoci se addirittura andiamo ad assumere in via sperimentale seguendo il modello delle scuole private. Perché? Perché purtroppo per esempio ad oggi ancora, sebbene la scuola sia autonoma e il dirigente scolastico sia responsabile del buon andamento e della performance della stessa scuola, lo stesso dirigente scolastico innanzitutto non è valutato e in secondo luogo non è debitamente sanzionato nel caso in cui la scuola che conduce, la scuola che dirige non raggiunge questi risultati. Quindi alla fine si creerebbero soltanto nepotismi, clientele, nuove clientele e sicuramente non ci sarebbe poi quella maggiore efficienza della scuola, proprio perché alla fine se io assumo un insegnante bravo o non assumo un insegnante bravo, alla fine non rispondo delle mie azioni. Staremo a vedere dunque come andrà a finire, sicuramente ne sentiremo ancora molto parlare di questo progetto di legge lombardo. Ti restituisco il microfono. Prima edizione. Vi lascio con Daniele Biacchessi. Italia in controluce. Ed Italia in diretta, raccontata da Italia in controluce, 17 febbraio, in studio Daniele Biacchessi. La biblioteca, un bene collettivo che può contribuire ad affrontare le grandi questioni della vita, così come i piccoli problemi di ogni giorno. C'è un'associazione, l'Associazione Italiana Biblioteche, che sta lavorando per migliorare la condizione delle biblioteche italiane. L'Associazione Italiana Biblioteche. Adriana Fracchia ha intervistato il suo presidente, Stefano Parise. 10 buoni motivi per andare in biblioteca, lo sappiamo tutti, ma è bene ricordarli. Certo. E in questo libro, che è formato da 10 racconti, racconti immaginari che però fanno riferimento a quello che io ho visto in molti anni accadere nelle biblioteche comunali, di quartiere in cui ho lavorato, si parla della promozione della lettura, che è una cosa molto importante, si parla però della dimensione civica e di confronto delle idee che si può attuare in biblioteca, che è un elemento fondamentale anche per la tenuta democratica di questo paese. Si parla di integrazione sociale, di lotta alla discriminazione, si parla di biblioteca come luogo di socialità e di partecipazione, si parla del rapporto fra i giovani e le tecnologie, il modo in cui la biblioteca può, come dire, rendere esperto questo rapporto che i giovani ritengono quasi naturale. Si parla della lettura come diritto per tutti, anche per chi si trova in situazioni estreme, come i detenuti, ad esempio. Ci sono esperienze bellissime di rapporto fra biblioteche e biblioteche carcerarie. Si parla della memoria come elemento per la consapevolezza di sé, ma nel presente, come presupposto per la costruzione di una identità non fondata su presupposti, diciamo così, ideologici o peggio, insomma, razzistici e altro. Ma soprattutto si parla della convenienza per la collettività a continuare a finanziare le biblioteche, che mi sembra sia un punto certamente importante per i bibliotecari, ma un punto meritevole di essere illustrato, perché quando si pensa alle biblioteche si pensa a qualcosa ormai di superato, no? Di appartenente a una dimensione del passato. Quindi questa è un po' la sintesi di questi 10 racconti, di questi 10 buoni motivi che io vorrei appunto proporre come riflessione per spingere le persone a riconsiderare la biblioteca come un luogo di socialità attiva, come un laboratorio urbano. Ecco, se morissero le biblioteche, secondo lei cosa succederebbe? Il futuro delle biblioteche, come quello di tutti i soggetti che ruotano attorno al libro, è un futuro denso di incertezze. Tutti noi, gli editori, i librai, i bibliotecari, dovremmo imparare a lavorare diversamente. Allora, io credo che però la perdita delle biblioteche possa essere una perdita molto importante per una serie di dimensioni. Io credo che investire nelle biblioteche sia investire nel potenziale culturale delle persone, e questo costa molto meno che riparare i guasti prodotti dall'ignoranza. Basta guardarsi attorno per rendersi conto di questa triste realtà. Era la prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi, ancora buona giornata anche da Anna Migliorati. Sono le 6.39 minuti 40 secondi in questo istante, seconda parte di prima edizione. Andiamo dalla nostra inviata a Sanremo, buongiorno Marta Cagnola. E allora, questa mattina però io la domanda non posso non fartela, perché per noi è l'ultimo appuntamento con te da Sanremo, e allora ce lo fai un pronostico? Buongiorno Anna, questo è un festival, diciamolo subito, senza vincitori annunciati. Resta la favorita della vigilia, cioè Emma, che può contare su uno zoccolo duro di fan giovanissimi pronti a televotarla, ma i meccanismi del voto sono talmente complessi che potrebbero apparire anche alcuni outsider. In questi ultimi giorni stanno salendo le quotazioni anche di Nina Zilli, quindi staremo a sentire, perché ancora non ci sono gli umori, il posto della situazione non ci dice cosa accadrà sabato sera. Intanto ieri sera una serata lunghissima, finita veramente tardi, nella quale gli ospiti stranieri hanno davvero risollevato un festival che rischiava di perdere il controllo. Soprattutto due esibizioni sono state particolarmente applaudite, che sono state elette la prima e la seconda più belle della serata dal voto della sala stampa. Duetto vincitore di questa gara un po' simbolica è stato quello tra i Marlene Kunz e Patti Smith, che hanno duettato su Impressioni di settembre della PFM. Le abbiamo incontrate, abbiamo incontrato i Marlene Kunz, che ci hanno detto così. La canzone ci piace molto, noi l'abbiamo già anche suonata altre volte, quindi, e ci viene bene, ci piace come viene la nostra versione, quindi eravamo contenti. E ci piaceva anche molto il fatto, visto che noi siamo un gruppo rock che va sul palco del festival, a presentare la canzone di un altro gruppo rock italiano che aveva avuto successo all'estero. Ci piaceva questa idea. Si sono venute in mente un paio di idee, però avevamo questo gancio con Patti Smith, e con cui ci sono molte affinità, sia anche lei è un po' una poetessa del rock, un po' come anche Cristiano, un po'. Scrive anche lei libri, c'è questa componente rock ma anche poetica, no? Della sua musica, quindi forse avrebbe potuto capire Impressioni di settembre, che è anche una canzone molto con delle belle immagini, con la sua poetica. Gli abbiamo mandato quindi la versione tradotta, le abbiamo mandato la nostra versione, la nostra interpretazione. Si vede che lei si è trovata bene, una buona anche proprio affinità di timbro vocale, di intonazione, di, insomma, mi viene in mente, di tonalità del pezzo, eccetera. Funziona molto bene, siamo contenti. L'altro duetto, che poi è stato un trio a far scalpore, è stato quello di Irene Fornaciari insieme a Brian May e Carey Ellis. Sentiamo com'è nato questo duetto proprio da Irene Fornaciari. Il duetto è nato, Brian è un amico di mio padre, no? Quindi anche qui è inutile che sto a negare, a nascondere questa cosa, cioè il contatto è nato da questa cosa qui, che mio padre sono amici loro, ma il fatto che lui poi dopo abbia accettato veramente di venire a fare questa cosa come ospite è grazie alla canzone che abbiamo scelto. La canzone che abbiamo scelto è di Joe Sentieri e si chiama Uno dei Tanti. Non è una canzone così conosciuta, cioè è conosciuta ma non a livello magari di Volare o insomma di grande di Mina, no? Così. Lui non la conosceva, Brian. L'ha sentita poi cantata da Shirley Bassey, Tom Jones, Joe Cocker e se ne è innamorato. E quindi ha mandato una mail dicendo: non riesco a togliermi dalla testa questa canzone, devo assolutamente trovarci un arrangiamento. Ok, tua figlia è brava, Irene è brava, perché è andato anche su YouTube, chiaramente non può mica fare brutte figure, no? Quindi è andata su YouTube prima a informarsi e capire come canto, com'è, e ha accettato. Ma ieri è stata anche la serata dei ripescaggi, due sono stati i più votati dal televoto tra i quattro eliminati, tornano quindi in gara Gigi D'Alessio insieme a Loredana Bertè e Pier Davide Carone insieme a Lucio Dalla. A te, Anna. Grazie Marta Cagnola. Come dicevo, l'ultimo appuntamento con noi, però tu il festival continuerai a raccontarcelo anche nelle prossime mattine. Grazie del frattempo, Marta Cagnola. E da Sanremo andiamo in tutt'altro luogo, parliamo di Libia. Invece io saluto l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Buongiorni. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Allora, noi poco fa abbiamo fatto la rassegna stampa, oggi c'è un anniversario che ricorre su tutti i giornali e sono i 20 anni di Mani Pulite, il 17 di febbraio, ma il 17 febbraio, non di 20 anni fa, ma di un anno fa, succedeva invece un'altra cosa, cominciava la rivoluzione libica, ormai possiamo dirlo perché un anno dopo davvero la Libia è un altro paese e tu, non proprio il 17 ma un paio di giorni dopo, eri lì, ci sei tornato qualche giorno fa e allora tra poco ce la racconti, la Libia un anno dopo, subito dopo le informazioni sul traffico. Prima edizione. 365 giorni per cambiare completamente un paese. È successo a molti paesi arabi dopo la cosiddetta primavera araba dell'anno scorso, è successo alla Libia, dove esattamente un anno fa cominciava la rivoluzione contro il regime di Gheddafi. Roberto, buongiorni. Allora, come anticipavo, tu sei stato in Libia un anno fa, ci sei stato qualche giorno fa, come è cambiato questo paese? Beh, la Libia, buongiorno a tutti innanzitutto, la Libia è cambiata tanto, moltissimo, se consideriamo 42 anni di regime e di paralisi, vi abbiamo cercato di raccontarlo più volte, però è ancora attaccata a vecchi schemi e stanno riaffiorando i problemi che Gheddafi aveva cercato di tappare. La Libia è cambiata tanto perché adesso c'è un paese con un nuovo governo, c'è un'euforia, si sta avviando verso elezioni, vi sono anche i primi partiti politici dopo 40 anni, Tripoli è una città caotica in cui le regole non vengono molto rispettate, però... Insomma, in macchina non si va proprio disciplinatamente, però... Sì, è una città un po' cambiata. Ascolta Roberto, tu ce lo racconterai anche nel corso della giornata. Ci sono alcuni simboli a volte che danno anche il senso di quanto un paese possa davvero, come dicevo, in 365 giorni cambiare faccia. Tu ci hai portato delle testimonianze da Tripoli e uno di questo è un insegnante di storia delle elementari. Allora, ve lo facciamo sentire, ce lo racconti intanto. Roberto. Bene. Sì, questa è uno degli aspetti della nuova Libia, la cosiddetta rivoluzione culturale. Pensate, uno dei nuovi compiti del nuovo regime è stato di liberare le menti degli studenti da anni di propaganda e adesso il nuovo Ministero dell'Agricoltura sta affrontando una sfida difficilissima, vale a dire ha riscritto 453 nuovi testi scolastici e ha dovuto istruire dei team insegnanti, ha stampato 26 milioni e mezzo di copie per un milione di studenti e adesso ha cancellato dai libri di storia tutti gli aspetti pregni di propaganda, materie come il libro verde, scienze militari, Gian Maria, la rivoluzione dello stato delle masse, e ha modificato anche la storia. Pensate che gli studenti non sapevano nemmeno cosa fosse, molti studenti libici, in arabo prima l'insegnante, cioè non sapevano neanche cosa fosse la storia antica del Mediterraneo, cose che per noi sono ovvie. Esatto, esattamente questo è il punto. L'insegnante si lamentava perché si lamentava soprattutto del ventennio, proprio del ventennio del periodo del re Idris, che aveva preceduto Gheddafi, che non si studiava per niente, ma si lamentava anche, come dicevate voi dalla redazione, di periodi enormi, di ere che non sono mai state studiate a scuola a causa del regime. E poi 40 anni, cioè ci sono intere generazioni fuori da così conoscenze che sono scontate per tutto il resto del Mediterraneo. Ah, questo senza dubbio, sapevano che cosa aveva fatto Gheddafi un certo giorno e che cosa non aveva fatto, ma non sapevano chi fosse Socrate o Platone o chi fossero i romani o i greci, e di noi italiani avevano una visione molto distorta. Comunque c'è un altro testimonianza che ci hai portato, questa ci racconta come sono riusciti a riscrivere questi libri. I think the number of titles, you know, book titles in Libya for primary and secondary education 400. Questa in inglese si capisce un po' di più, Roberto. Certo, questo è l'addetto della cultura nazionale, del centro curriculum della cultura, che spiega appunto quest'opera titanica, 26 milioni e mezzo di libri, pensate, di copie stampate in Egitto, in Tunisia, anche in Italia presso compagnie private, poi fatte diventare libero. Però alla fine, con la scuola partita con 6 mesi di ritardo, apparentemente ce l'hanno fatta, e i libici da questo punto di vista cercano di dare un nuovo volto alla nuova Libia. E anche da qui si prova a ripartire. Grazie davvero per questo racconto, Roberto Bongiorni, ti ritroveremo nel corso della giornata. Grazie intanto per essere stato con noi alle 6:50 minuti del mattino a raccontarci questa nuova Libia. C'è un altro paese che invece tutta questa strada la deve ancora cominciare, ve l'abbiamo detto, nella notte è stata approvata la risoluzione dell'ONU contro le violenze invece in Siria, ma questa è stretta attualità, anche di questo parleremo tra poco in GR24 invece. Grazie nel frattempo Viola Bottoni, Peter Bescapè, da Anna Migliorati, buon venerdì, ci risentiamo già tra poco con GR24.